Cari amiche, cari amici, bentrovati, è martedì sera, brussellando, e Maridia ai microfoni, saluto Daniemme in regia. Buonasera a tutti. È come sempre un piacere essere qui con voi e per trascorrere insieme, speriamo, come sempre, piacevolmente, una serata condita da eventi culturali, letteratura e un ospite estremamente particolare ed anche importante, del quale parleremo tra poco. Ringrazio tutti coloro i quali continuano a scrivere a Brussellando. Brussellando, vi ricordo, ha un'email address che è il seguente, brussellando@gmail.com. E per quanti ancora non hanno ricevuto risposta, vi assicuriamo che insomma, nei prossimi giorni tenteremo di esaudire ogni vostro desiderio. Tra l'altro siamo molto contenti perché il palinsesto procede molto velocemente, quindi insomma già siamo arrivati al 2012 con la programmazione, quindi questo ci rende notevolmente sereni anche rispetto alle puntate, alle serate qui con voi. Dopo 10 giorni di estate, quella è stata poi la nostra estate, quest'anno oggi è ritornato un po' il grigio, quindi siamo un po' così, un po' di malumore, dopo tanto sole, un cielo blu bellissimo, celeste, splendente, senza nemmeno una nuvola. E oggi è ritornato un po' il clima, quello un po' grigio, quello che di tanto in tanto ci fa un po' riflettere e pensare. Quindi scusate se questa sera vi sembrerò un po' più pensosa del solito, però questo è il mio stato d'animo questa sera. I nostri Giorgio e Imola sono in arrivo e quindi prima di passare e dare ampio spazio a questo nostro ospite di questa sera, volevo ricordarvi qualche evento e in particolare molti di questi eventi avranno luogo presso a poco tra 2 settimane. E nell'ambito dell'undicesima settimana della lingua italiana nel mondo, tra il 17 e il 21 ottobre. Questi eventi sono organizzati dall'Istituto Italiano di Cultura e ci sono varie cose che vale la pena segnalare. Dal 5 ottobre fino al 6 gennaio 2012 c'è una mostra fotografica, Le luci delle pietre, opere di Savina Tarsitano, poesie del poeta rumeno Dinu Flamand. E tutto questo avrà luogo il 5 ottobre, quindi il vernissage il 5 ottobre, ricordiamo che sono presenti anche i nostri amici di Arza alle ore 18:30 a The Center, presso The Center, Avenue Marnix 22, 1000 Bruxelles. Per quanti volessero partecipare, è previsto l'appuntamento, quindi www.thecenter.eu. Invece il 17 ottobre vi è una conferenza il cui titolo mi ha fatto sorridere, Come si diventa Michelangelo, del professor Giuliano Giunta dell'Università di Trento e tavola rotonda con i professori Claudio Giganti, Université Libre de Bruxelles e Dirk Vandenberg, invece della Vrije Universiteit Brussel, in collaborazione con la società Dante Alighieri Comitato di Bruxelles, sempre presso l'Istituto Italiano di Cultura. Ancora, quindi sempre nell'ambito della settimana italiana, un'altra conferenza, invece una giornata dedicata al lettore, il concetto di italianità, scrittori e giornalisti a confronto. Il 19 ottobre invece, ritorna un tema di cui abbiamo discusso anche qui a Brussellando qualche mese fa, l'Unione Europea e la Primavera Araba, futuri scenari e nuove prospettive, in collaborazione con il CLENA, Comitato di Collegamento degli Esperti Nazionali Distaccati presso le istituzioni europee. Invece, per quanti amassero la chitarra, vi è il duo Tobias Kassung e Luciano Marziali, giovedì 20 ottobre alle 19. Infine, per concludere questa settimana veramente italiana, seminario di glottodidattica per insegnanti di italiano come L2, l'uso del cinema della didattica dell'italiano a stranieri, a cura della professoressa Paola Micheli, Università per Stranieri di Siena. Per quanti volessero iscriversi, è necessario inviare un'email ad amministrazione.iicbruxelles@esteri.it. E questa è una prima tranche di eventi. In genere non diamo molto spazio a tutta una serie di cose che a volte insomma capitano su Bruxelles, prima perché non lo sappiamo, quindi vi rispondo subito direttamente in maniera veritiera, però non appena poi insomma ce ne viene data notizia, cerchiamo di diffondere con voi anche le informazioni che ci arrivano. E sapete, poi sono tanti gli eventi, perché poi scegliamo un evento piuttosto che un altro, è spesso dettato veramente dalla conoscenza di una cosa piuttosto che da un rifiuto. Quindi tutti coloro i quali avessero degli eventi, che reputano necessari essere divulgati qui a Brussellando, nuovamente brussellando@gmail.com. Vi ricordo tra l'altro anche il primo appuntamento esterno di Brussellando quest'anno, perché come sapete di tanto in tanto ci dilettiamo anche a presentare dei libri presso la libreria Piola, e Garibaldi è stato ucciso a Caserta. Pensate che un articolo su Garibaldi è stato recentemente anche pubblicato sul New York Times. I contenuti poi li sveleremo martedì prossimo con il nostro ospite Rosario De Simone, quindi ne parleremo approfonditamente. Però insomma è abbastanza interessante come comunque Garibaldi, controverso che sia, resta attualità. Quindi giovedì, martedì 11 Rosario sarà qui con noi in radio, e poi replicheremo giovedì 13 ottobre proprio in libreria. E invece vi ricordo, per gli amanti della birra, che tra qualche giorno, credo se non erro proprio sabato, ci sarà la festa della birra, quindi l'Oktoberfest come al solito organizzata a Plajurda. Vi ricordo che per riservare però dovete andare direttamente sul sito, e penso che se googlate Oktoberfest Plajurda troverete facilmente il link. Bene, ora io direi di passare al nostro ospite di questa sera. Sono un po' emozionata, pare che è un po' uno scherzo, no? Quando uno dice ogni martedì che è emozionato, invece poi così non è, perché gli ospiti sono tutti diversi, sono particolari, ognuno poi con una propria storia e ognuno con un sogno che molto spesso diventa realtà. Parliamo spesso di romanzi, parliamo spesso di saggi. Imola poi abbiamo dedicato poi proprio un angolo alla letteratura, quella diciamo un po' più nota e conosciuta, mentre noi con le nostre interviste cerchiamo di far parlare anche l'altra realtà, la realtà un po' più piccola, quella realtà che emerge con difficoltà ma che tutto sommato riesce ad emergere. E con mio sommo dispiacere, perché io ho saputo di questo evento soltanto qualche giorno fa, manifestazione quasi pressoché conclusa, altrimenti ne avremmo parlato già martedì scorso, perché l'evento di cui parliamo in realtà si è concluso qualche giorno fa, proprio il 2 ottobre, ed è il Women's Fiction Festival, che è all'ottava edizione. Pensate che è un festival che nasce a Matera, nasce in Basilicata, quindi una terra anche molto vicina alla mia terra di origine, quindi questo è un altro motivo per esserne veramente fieri. Ed è un festival di letteratura al femminile che ha previsto presentazioni di libri, incontri con gli autori, immaginate a ingresso libero. E inoltre, come nelle migliori writers conferences, quindi nelle quelle che avvengono in America, si sono tenute lezioni magistrali e workshop di scrittura. Questi ultimi però ovviamente sono stati a pagamento, e gli spunti sono stati tantissimi. C'è stata una mostra fotografica dal titolo Preferisco leggere, L'incontro non è un paese per donne, e il premio Baccante, che quest'anno è stato consegnato a Margaret Mazzantini. Parliamo di tutto questo con Maria Teresa. Maria Teresa! Sì, eccomi, buonasera a tutti. Oh, benvenuta a Brussellando, e noi siamo particolarmente contenti di averti nostra ospite qui questa sera. Grazie, anch'io sono contenta di essere in comunicazione con voi. Allora, io devo ringraziare tra l'altro Giuliana, che mi ha scritto e mi ha inviato, Giuliana Galvis di Grandi Associati, che mi ha permesso di conoscere questa realtà, perché finora effettivamente era a me sconosciuta. E quindi per me è veramente un piacere, anche perché l'evento è avvenuto in Basilicata, io sono di origine campana, a più lato insomma Sapri, quindi zona abbastanza adiacente alla vostra, quindi insomma sono stata ben lieta di raccogliere questa iniziativa. Quindi mi chiedevo brevemente, magari prima ci racconti un po' di te, insomma, per presentarti ai nostri ascoltatori, e poi andiamo più nel dettaglio in questa iniziativa del Women's Fiction Festival. Io sono Maria Teresa Cascino, abito a Matera, sono tornata qui 10 anni fa dopo essere stata 10 anni in giro un po' per il mondo, tra Roma, Milano, Londra, New York, Boston, San Francisco, e quindi quindi ho deciso di tornare a Matera perché penso che sia una delle città più belle del mondo. Abbiamo il privilegio di vivere in una città che è un po' la capitale della terra, un laboratorio di vita, perché qui ci sono quartieri abitati dal Paleolitico ai giorni nostri, e quindi sono una di quelle risorse, no, che ha creduto nel sud e nella rinascita di questa terra che ha bisogno un po' di riscattarsi dal passato angusto. E ho conosciuto Elizabeth Jennings nel 2004, io ero tornata quindi da circa 2 anni dagli Stati Uniti, e il Women Fiction Festival di fatto è una creatura poi nata grazie all'incontro con Elizabeth, con Maria Paola Romeo, con Giovanni Moliterni. Noi siamo 4 ad aver concepito questo evento. All'epoca di fatto Elizabeth aveva semplicemente pensato di realizzare a Matera un profilo creativo. Lei è una scrittrice, Elizabeth vive a Matera, americana, e all'epoca sentiva proprio la necessità di riunirsi e stare con altre persone che avessero le sue stesse necessità, i suoi stessi bisogni, e quindi nacque il primo International Writing Retreat nei Sassi di Matera l'anno 2004, se non che poi dall'edizione successiva ci siamo dotati di un vero e proprio business plan, ci siamo strutturati meglio, abbiamo chiesto i fondi e ne abbiamo ottenuti, anche perché ci sono stati alcuni referenti istituzionali che hanno avuto la lungimiranza di credere in questo evento, e quindi abbiamo cominciato a raccogliere sponsorizzazioni, soprattutto poi sul mercato privato, perché Harlequin Mondadori comunque dal 2004 ci ha sostenuto essendo leader nella Women's Fiction, e così è nato il Women's Fiction Festival, che si è trasformato negli anni, devo dire, appunto da un writing retreat poi è diventato una vera e propria writers conference, cioè un congresso internazionale per scrittori. Qui a Matera arrivano da diverse parti del mondo editor di importanti case editrici, agenti letterari di importanti agenzie letterarie, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, e così i partecipanti hanno l'occasione qui a Matera di venire a seguire i panel all'interno dei quali appunto gli editor e gli agenti illustrano quali sono le loro preferenze circa gli acquisti sul mercato editoriale, su quali sono appunto le opere che cercano, su tutto il dietro le quinte, no, della narrativa femminile, ma non solo. E la cosa molto molto particolare è la borsa del libro. Noi offriamo agli iscritti, e vengono davvero da tutto il mondo, quest'anno abbiamo partecipanti dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, dall'America, moltissimi gli italiani, si sono svegliati gli italiani, perché prima era solamente una roba molto internazionale, e hanno la possibilità di fare il pitching, che è una cosa molto americana, molto hollywoodiana, e noi l'abbiamo tramutata, portata qui, e quindi loro hanno 10 minuti del loro tempo per raccontare attraverso una semplice sinossi o comunque insomma attraverso l'esposizione della loro idea qual è appunto il loro progetto editoriale, la storia che hanno in mente. Sono momenti di grande concitazione chiaramente per chi viene e partecipa al Women's Fiction Festival, in particolare alla borsa del libro, però c'è anche da dire che nonostante insomma si facciano grandissimi sforzi, perché gli scrittori li fanno, poi ci sono anche persone che sono state scoperte, certo, che sono state scoperte proprio qui a Matera, tra cui Giuseppina Torregrossa con Il Conto delle Minne, scoperta qui da Giulia Ichino, Gabriella Genisi, che ora è già al suo terzo libro grazie ai primi contatti e quindi contratti avuti grazie al Women Fiction Festival, Elizabeth Edmondson e altre anche sui mercati internazionali. Per cui sì, è una novità nel panorama editoriale italiano, e quindi è abbastanza partecipato adesso dagli editori e gli agenti che quasi quasi ambiscono a venire qui per conoscere nuovi talenti, e poi comunque perché vengono molto coccolati nella città, che è accogliente, è bellissima, tutti i luoghi in cui si svolge l'evento sono luoghi di grande interesse storico, artistico, architettonico, musei piuttosto che monasteri del 1500 con delle viste sul canyon a strapiombo, per cui è molto inspiring. Assolutamente. Parliamo però magari di alcuni degli eventi salienti del festival. Partirei proprio dal premio Baccante, che quest'anno avete attribuito a Margaret Mazzantini. Quindi mi viene da chiedere, perché Margaret? Margaret Mazzantini è una delle autrici che più si è contraddistinta nel panorama delle donne che scrivono di amore, in particolare il suo ultimo libro è una storia di amore molto, molto stridente, molto dura, e il premio Baccante viene dato a chi si contraddistingue nel mercato della narrativa femminile, non necessariamente una scrittrice, infatti l'abbiamo dato anche ad Inge Feltrinelli, e lei c'era sembrata la figura più adatta a rappresentare il miglior modo di interpretare i sentimenti ai giorni nostri, e quindi lei è la perfetta Baccante. Quest'anno è stata ricevuta in grande stile, numeri veramente da grande evento, e è arrivata addirittura trafelata perché ha dovuto prendere una nave da Dubrovnik, si è fatta 10 ore di nave per arrivare qui a Matera, via Bari, e è arrivata con molto ritardo, c'era un pubblico eccezionale ad attenderla, quindi sì, per noi lei averla celebrata come Baccante è stato un grande onore, e riteniamo che sia stata una scelta giustissima per i motivi di cui sopra. Le attività che facciamo comunque per il pubblico mirano soprattutto a crescere il livello di lettura dei libri, perché la Basilicata è una delle regioni dove si legge meno in Italia. Abbiamo appurato, sì, secondo fonti Istat, che solo i lettori insomma lucani dovrebbero un po' approfittare di queste occasioni così preziose. Con un festival come il nostro possiamo dare un piccolo contributo, è chiaro che ci dovrebbero essere una serie di iniziative volte ad incrementare i dati sulla lettura, a promuovere i libri, a far aumentare proprio il numero dei libri nelle biblioteche domestiche, perché cioè, secondo i dati di Istat 2 famiglie su 10 hanno delle biblioteche domestiche in regione, e quindi comunque la nostra azione comincia anche in tenera età, perché andiamo nelle scuole, portiamo gli autori nelle scuole, facciamo in modo che sia gli insegnanti, quelli chiaramente più volitivi, quelli che si appassionano di più alla materia, poi coinvolgano gli studenti in attività di studio e approfondimento sulle tematiche appunto di cui parlano i libri, che possono essere l'immigrazione, l'amore piuttosto che la fantascienza o il fantasy. E quindi questa è una delle attività che forse ci dà maggiore soddisfazione, perché avere a che fare con i ragazzi, con i giovani, e forse la cosa che dà maggiore emozione e ti fa sentire più gratificato, perché senti proprio di aver raggiunto degli obiettivi. Con il pubblico locale diventa più difficile, però è anche giusto educarli, perché poi il pubblico magari si muove laddove c'è il personaggio televisivo, c'è il personaggio star, mentre magari vengono autrici e autori bravissimi, sconosciuti, però non c'è un pubblico che partecipa in modo massiccio, e quindi in qualche modo noi si fa dei sacrifici per portare i libri tra la gente, anche degli autori sconosciuti che comunque meritano. E quest'anno gli eventi sono stati diversi. Abbiamo aperto con una mostra interessantissima di Patrizia Traverso, che è una mostra di fotopagine, e quindi c'è anche un libro che si chiama Preferisco leggere. Tutta la nostra edizione infatti è nata sotto l'egida appunto del titolo Preferisco leggere, dalla mostra e dal libro di fotopagine di Patrizia Traverso. Le opere sono ancora esposte qui in galleria, in Galleria Opera Arte Arti a Matera, fino al prossimo 23 ottobre, perché il 22 ottobre a Matera ci sarà il forum del libro, e quindi ne abbiamo approfittato per dare agli ospiti dell'altro evento successivo dedicato ai libri e all'editoria la possibilità di potersi gustare questa bellissima opera, questa bellissima mostra in cui le opere ritraggono delle persone, sono fotografie di persone che intente a leggere, e sono associate a delle bellissime citazioni letterarie. E quindi l'ottava edizione si è aperta con la mostra Preferisco leggere, con una serie di interventi su perché si scrive e su come si scrive, e poi su come si pubblica, tant'è che tra l'altro c'era anche Marco Ferrario, che è l'amministratore delegato di Book Republic, che è una casa editrice digitale con cui il Women's Fiction Festival ha sancito una collaborazione lanciando appunto gli ebook del Women's Fiction Festival. Quindi durante anche gli incontri con il pubblico, non solo al congresso, si sono evidenziati tutti gli aspetti legati alle nuove forme di pubblicazione, che vedono anche gli autori avere un ruolo diverso nel mercato mercato editoriale, oltre che appunto gli agenti e gli editor. Ed è stato interessante scoprirne anche i numeri, perché è in evoluzione continua. E toglimi una curiosità invece. Toglimi una curiosità a proposito degli ebook. Come sta cambiando secondo te? E poi magari possiamo anche condividere quelle che sono state le riflessioni che avrete sicuramente fatto durante il festival. Come sta cambiando l'editoria italiana a seguito degli ebook? In Italia hanno successo? Ci sono già delle stime? Che cosa ci puoi dire in merito? Sicuramente in Europa i dati sono più confortanti rispetto a quelli dell'Italia, però anche in Italia il fenomeno sta crescendo. Ci sono appunto case editrici proprio come Book Republic che già per esempio realizzano dei buoni numeri con altre sezioni dedicate magari alla fantascienza, come appunto 40 Key, che è sempre di Book Republic, una casa editrice che si occupa appunto della pubblicazione di libri legati alla fantascienza. Cioè nella nicchia funziona abbastanza, e noi ci siamo soffermati su alcuni fenomeni, come per esempio, cioè se negli anni 30 i tascabili erano considerati quasi uno scandalo, adesso l'ebook viene vista quasi come una cosa oscura, una cosa di difficile fruizione, cioè di fatto è uno strumento in più che aiuta a leggere di più, perché pensa solo che puoi scaricarti un libro in francese, in inglese, nel posto più remoto sulla terra, e puoi avere una biblioteca ambulante sì, a portata di click, sempre con te. Sì, no, ma assolutamente giusto. Toglimi una curiosità, quindi a proposito degli ebook, Emma Books. E nasce con voi, c'è un legame, oppure sono due fenomeni che si sono incontrati, paralleli che poi si sono incontrati? Emma Books nasce con grandi associati, con Women Fiction Festival e Book Republic, ed è stata proprio lanciata il 29 settembre, ed è una casa editrice dedicata appunto alla women's fiction. A cui possono partecipare solo scrittrici di sesso femminile, oppure c'è una varietà offerta quindi a tutti? E chiaramente cioè, sono libri di women's fiction scritti da donne per donne, ma non è detto che non ci siano degli autori della women's fiction. Ho capito. No, giusto per chiarire, perché sai, a volte poi magari ci si sofferma solo su un titolo e si resta lì. Ancora una curiosità, ci sarebbero tante altre domande, però come sai purtroppo il tempo in radio è un po' tiranno. Quali sono stati i commenti del pubblico? Qual è stata la reazione? Se magari c'è stato anche un episodio, insomma, che vuoi condividere con noi, un episodio magari un po' più simpatico, particolare, insomma, che ha animato una delle vostre serate? Abbiamo ricevuto molti commenti positivi dal pubblico, anche dal pubblico materano che ha partecipato numeroso. Poi avendoli realizzati in piazza gli eventi è stato molto divertente, perché c'era comunque sempre associato poi l'assaggio di prodotti dell'enogastronomia locale, e gli eventi sì, c'era il pubblico materano, ma c'era sempre anche il pubblico internazionale che partecipava appunto al congresso, quindi forse la cosa più bella in assoluto è stata vedere un incrocio, no, di etnie, di una dimensione multiculturale in una città che pian piano sempre di più sta diventando multiculturale, perché comunque si sta aprendo moltissimo al turismo, soprattutto quello proveniente appunto dai paesi esteri. E che cosa bolle in pentola? Immagino che ci saranno altri eventi, altre attività, oppure è solo un evento annuale che si ripete una volta all'anno? No, noi generalmente durante l'anno proponiamo poi altre presentazioni di libri, e da aprile del 2011 c'è una formula molto interessante e molto partecipata, che è il Brainstorming at the Spa, cioè noi organizziamo un ritiro creativo, diciamo così per semplificare, con scrittrici, in questo caso a novembre saranno tutte italiane, mentre a marzo dell'anno prossimo saranno tutte inglesi, lo ospitiamo all'interno di un albergo con uno spa, e quindi ci sono circa 20 scrittrici condotte da un coach che vengono vengono in questo posto per raccontare quello che stanno scrivendo e cercare insieme agli altri delle soluzioni narrative alla propria trama, alla caratterizzazione dei personaggi, allo sviluppo della propria storia. È una vera e propria tempesta di cervelli che aiuta la creatività, senz'altro. Beh, mi sembra essere... Uno a novembre e uno a marzo. Beh, mi sembra essere effettivamente comunque un'idea strepitosa, quindi magari... E come si fa a partecipare? Quali sono i requisiti per eventualmente magari partecipare al prossimo festival, quello del 2012? Ah, non ci sono dei requisiti particolari, nel senso chiaro che se si ha un... se si è già editi come autori è più facile capirsi, mentre chiaramente per gli scrittori inediti ci sono tanti passaggi ancora da chiarire, per questo è fondamentale per loro venire e capire come funziona il mondo editoriale. È chiaro che se si ha poi quindi un'idea, una sinossi pronta, la si può presentare agli editor e agli agenti futuri. Comunque non ci sono dei requisiti, c'è una quota di iscrizione che fino a giugno è bassa, nel senso che va dai 160 ai 180 euro, poi aumenta dai 190 ai 220 euro, a seconda se si è associati o meno. Ho capito. E quindi si va sul sito www.womensfictionfestival.com e si può procedere con l'iscrizione. Ho capito, quindi insomma è aperto a tutti, quindi volendo anche da qui ai nostri ascoltatori, se fossero interessati, possono comunque iscriversi. Siamo pronti per accoglierli a Matera per il 2012. Tra l'altro mi sembra di capire che va benissimo anche se qualcuno magari scrive in inglese oppure probabilmente anche in francese. Sì, sì, assolutamente. Quindi sì, la lingua non è un ostacolo. Non abbiamo ancora degli editor, però ci stiamo attrezzando. Ah, bene, quindi mi sembra essere un'ottima, ottima notizia. C'è un saluto, c'è qualcuno a cui vorresti indirizzare magari un ultimo commento, un ultimo pensiero prima di congedarci? Ma sicuramente a tutti gli ospiti che sono venuti qui dalla Svezia, dall'Inghilterra, dalla Germania, dal Belgio, perché l'hanno trovato qui la loro seconda casa e questo ce l'hanno detto quasi tutti i giorni, ringraziandoci per avergli offerto questa esperienza, ma sono io a ringraziare loro perché sono loro che davvero ci danno la più grande soddisfazione. Va bene. Io avevo anche una domanda, visto che devo parlare di Brainstorming at Spa. Ma per caso chi partecipa a Brainstorming offrirti anche un Angel Flight, è incluso nel pacchetto? Un Angel Flight, il volo dell'angelo. Ah, stupendo parti... quello. Se è aperto, certo, si può andare, perché mi sembra che quello apra da giugno a settembre. No, perché mi sembra che uno che fa Brainstorming e poi dici, beh, andiamo ad aprirci la mente, quello in effetti... Come vedete questa Basilicata offre tante esperienze uniche, sì, e particolari. Beh, tra l'altro sai che la Basilicata è divenuta oltremodo famosa anche grazie al film Basilicata Coast to Coast. Certo, anche fatto un itinerario di Basilicata Coast to Coast, scritto un opuscolo, Chuck si viaggia, lo trovate sul sito della ptbasilicata.it, l'ufficio cinematografica in Basilicata, per cui ce n'è di storie da raccontare su questa terra meravigliosa. Assolutamente, guarda. Allora io, Maria Teresa, ti ringrazio, ringrazio anche grandi associati per averci messo in contatto, spero che insomma per tutti gli eventi futuri insomma possiamo essere informati ugualmente in maniera tale da poter diffondere le vostre ottime iniziative. Grazie, sì. Io ringrazio voi. No, anche fra l'altro se ci mandi visitando il nostro blog che è brussellando.blogspot.com per il momento, se ci visiti magari ci lasci anche non so, qualche indirizzo, qualche link, perché così anche chi visita il nostro blog può anche raggiungervi più facilmente. Senz'altro, grazie per il suggerimento, lo farò. Bene, allora ti auguriamo un'ottima serata e a prestissimo. Ciao. Grazie anche a voi, a presto. A presto. Ciao. Ciao. Salut, je suis Dani et si comme moi tu veux faire partie de l'équipe de bénévoles de Radio Alma, envoie un mail à l'adresse mail@radioalma.be. À bientôt. Le voilà, il nostro grande Dani. Salut, c'est moi, c'est Dani. Che non è Dani M. Che non è Dani M, non confondiamoci. Non confondiamoci. Dani M c'ha il copyright, l'ho scritto Dani M. Quindi D-E-N-N-I E-M. D-E-N-I-E-M, Deniem. Deniem, l'hai inventato tu stasera, così? Deniem, così si dice, Deniem. Non veramente, non è mai, non è sempre stato Dani, no? Mica Deni. Detto anche Daniem. Daniem. Allora, grande Daniem, questo da chi? Quest'altra moglie, Daniem. Chi lo sa, chi lo sa. Vi volevo raccontare questa cosa che viene da molto lontano. Se vi parto di vi parlo di geroglifici, sicuramente avete già intuito di cosa vi andrò a parlare. Geroglifici, che belli! Già, e la stella di Rosetta che c'entra? Non c'entra. Non c'entra? No, non era babilonese quella? Che cosa ci ha aiutato la stella di Rosetta? Vabbè, io avevo lanciato una provocazione, lei l'ha colta, e adesso ci parlerai della stella di Rosetta. Prima ci dirai se c'è un legame o meno con i geroglifici. Prima mi racconti e poi io ti rispondo. Tutankhamon, son tombeau e ses trésors, la sua tomba e i suoi tesori. Decidi però anche in lingua parlare, ti prego. Parlo in italiano. Bene. Magari non forbito, magari semplice, con qualche errore sintattico, grammaticale. Tu riesci a parlare semplice e non forbito? Bene. Giuro, George, che per la fine dell'anno ti faccio un remix di tutte le tue citazioni degli eventi in italo-francese e galattico. Vabbè. Allora, Essa tomba e i suoi tesori è un'esposizione fuori del comune. In effetti è un'esposizione che, a quanto dicono anche persone che l'hanno già visitata, è un'esposizione destinata a un largo pubblico, famiglie, scuole, studenti, appassionati di archeologia, che propone in maniera originale e moderna una delle più grandi sensazioni archeologiche della storia, cioè la scoperta da parte di Howard Carter nel 1922 della tomba del mitico faraone Tutankhamon e dei numerosi tesori che nascondeva. Quindi ci saranno più di 1000 oggetti, quindi un'esposizione veramente grande, e con le repliche precise e scientificamente approvate. Questa ricostruzione unica, allo stesso tempo così un po' ludica e anche educativa, è una vera avventura multisensoriale. Quindi, insomma, io consiglio tutti di andare a immergersi nel mondo dell'Egitto, nel mondo dei faraoni, e vi ricordo che alla Bruxelles Expo, quindi a Heysel, è una tariffa entrata minima, un biglietto di entrata fra i 6 e i 16 euro, quindi insomma più che affrontabile, ed è dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 18. Allora, invece, per quello che riguarda questa famosa stele di Rosetta, George... Sentiamo la stele di Rosetta. Sempre che tu, ovviamente, sia d'accordo con l'interpretazione che io ho dato della stele, perché tu potresti non essere d'accordo, già lo so. Ebbene, è entrata nella storia perché è stata scritta in tre lingue diverse. Ah, ma questo è incredibile, in tre lingue diverse. Cioè, che conoscendone una potevi conoscere le altre due. Incredibile. Bravo. Questo è fantastico. E quindi era... praticamente l'egiziano in scrittura demotica e l'alfabeto greco. Ah. E la pietra aveva una dimensione di 112x76 centimetri. Quindi voglio dire, era anche abbastanza spessa, altrimenti non l'avrebbero mica chiamata la... No, ma tu hai detto tre idiomi, hai citato l'egiziano e il greco. Quindi e hai saltato la... Come? Hai saltato uno, sono tre le lingue. Egiziano, greco e Allora c'era l'egiziano, greco, quello dei geroglifici, sì. Poi c'era quello demotico, sì. E poi l'alfabeto greco. Ah, ecco, molto bene. Forse l'avevi saltato quello, non mi avevi ascoltato. Sì, non l'avevo sentito. Comunque, bene, George, praticamente era il Google Translate dell'impero egizio. Sì, ante litteram, il Google Translate ante litteram. Applauso per ante litteram. Applauso per ante litteram. E quindi giuro, bello applauso in studio. No, una grandissima grazie scoperta. Grazie per i complimenti. Una grandissima scoperta quella stella di Rosetta. Insomma, ci sono questi, è il caso di dire proprio pietre miliari nella storia, questi colpi di fortuna che ci danno la possibilità di scoprire nel nostro passato. Tra l'altro io non ho notizie, sì. Ma io vorrei che magari qualche ascoltatore mi può elucidare sul lineare A. Conosciamo il lineare B, ma non conosciamo il lineare A. Se qualcuno ha notizie, io... ho abbandonato i miei studi un po' di tempo fa. Però allora, se qualcuno ha notizie, contatti George Laurence via il blog brusselando.blogspot.com e lasci un commento alla sezione commenti, così dal titolo lineare A. Sì, lineare A. Sei sicuro, George, che lineare A non è la linea di metropolitana, non so, di Genova? No, il lineare B è... Io pensavo fosse la linea delle aree. No, nemmeno quello. No, siamo ancora più indietro, una lingua antichissima. Ancora più indietro. Allora io direi scoperta come al solito da un inglese, come al solito, perché in queste cose erano bravissimi. E mica solo gli inglesi, anche i tedeschi. Tra l'altro anche morto molto giovane. Erano più c'avevano anche i tedeschi soldi. Erano più degli archeologi, erano questo è vero, di però più, comunque però dobbiamo tanto anche ai tedeschi. Sì, sì, assolutamente. Lineare A era uno delle due scritte tipico dell'impero di Creta. Sì. Lineare A, ma poi le arabi, ma io non so se lineare A è poi stato sviluppato. Miceneo. Il problema non è quello, il problema è sapere se è stato mai tradotto, giusto Giorgio? Sì, se ci sono stati degli studi che hanno portato alla scoperta, quindi all'interpretazione, al decriptaggio, come si dice? Decriptaggio, senza la sì. Decriptaggio. Beh, no, sì. Perché il nesso è abbastanza raro, quindi decriptaggio. Sì. Bene, io quindi c'è un'assimilazione, a volte regressiva, come un verbo bellissimo che mi piace, adesso lo dico, è il verbo italiano annuire, che mi fa impazzire, perché è un verbo bellissimo, perché ho scoperto che il verbo annuire è un movimento della testa dalla posizione zero, cioè normale, in basso. Infatti quando noi diciamo sì, facciamo così. Dalle nostre parti, altrove no, pare che non sia sempre così. Beh, insomma, mondo latino io parlo. Ecco, mondo latino, annuire. Perché... Quindi annuire per noi significa muovere la testa dalla posizione zero in basso. In basso. Anche se poi il movimento è completo, diciamo così, uno va su e giù. Sì, che poi ritorna in posizione zero. Se noi guardiamo nel mondo latino, c'era un verbo latino che è nuo. Nuo. Che aveva due prefissi, ab e ad. E uno significava annuire, cioè da zero verso giù, e l'altro Federica prendi nota. Annuire invece era da zero verso l'alto. Hai visto? È come in Sicilia. In Sicilia per dire no, come si dice? Non lo so, come si dice? Si muove la testa dalla posizione zero in su. Il famoso che è esattamente è l'opposto di è vero, di confermo, non sono in Sicilia. Non sono in Sicilia, diciamo che io lì conosco, è evidente ancora lì, però insomma ecco, anche dalla tua parte. E questa è una cosa interessante, perché si è perso, mentre comunque, è rimasto annuire, si è perso l'altro. George, vedi, si è perso l'altro. George, ti do un esempio un po' più recente. Grazie. In Grecia per dire sì si dice né, in la ex Jugoslavia per dire no si dice né, quindi cioè no, si dice me. In greco è me. Sì, non, preciso, non è con la n ma con la m, me. Molto simile. Greco me. Moderno me. Anche in greco moderno, me. Nell'antico era uk. Però uk. Per fortuna o purtroppo ci sono le evoluzioni. Ci sono le evoluzioni. Il Foferavec. Non possiamo farne meno. Tra l'altro, Giorgio questa sera non ha studiato perché avrebbe dovuto raccontarci, ma questo non lo potrà fare nemmeno martedì prossimo perché non c'è, della Teogonia di Esiodo. Quindi ora tu, bravo bravo, come i bravi studenti, tra due settimane ci parlerai, io ti interrogerò sulla Teogonia di Esiodo, perché abbiamo dedicato una nuova rubrica alla mitologia. Siccome io già so tutto della Teogonia, non mi va di parlare. Certo, non vuoi togliere la sorpresa. Ti posso dare solo l'inizio se vuoi. In principio era il caos, poi tutto il resto. Abbiamo già parlato in principio era il caos. Vabbè. Quindi segnatelo, così per i nostri amici ascoltatori, tra due settimane saranno soprattutto curiosi di sapere che cosa, forse tanti già lo sanno, ma comunque che cosa significa Teogonia. E poi diciamo anche chi era Esiodo. Questo è molto semplice. Questo Teogonia, è semplicissimo. Per i nostri amici ascoltatori, abbiamo qualche altro evento simpatico da consigliare? Sì, allora, c'è il Salone dell'Alimentazione. Che veramente vi consigliamo di visitare, perché l'ospite d'onore quest'anno è l'Italia. E quindi, insomma, è un evento che ci riguarda veramente da vicino, perché è un modo anche per riscoprire tutte quelle che sono le nostre migliori tradizioni. Tra l'altro, oggi vi racconto un episodio abbastanza carino. Sono andata a pranzo con delle colleghe che, ovviamente non italiane, mangiano molto raramente la pasta. Le quali, Giorgio, mi hanno posto la seguente domanda. Ma Marilena, ci puoi dire come mai la pasta poi la chiamate anche maccheroni? E questa è stata la prima domanda. La seconda domanda è stata: ma come mai la forma è differente. Io ho detto. E allora lì è iniziata una piacevole conversazione, se vogliamo, sui differenti tipi di pasta. E quindi, insomma, abbiamo cominciato dalle penne rigate, le penne lisce, gli spaghetti, le bavette, le linguine. Tra l'altro, io stavo mangiando un delizioso piatto di bavette al pesto. Potrei un attimo inserirmi? Io vorrei spezzare una lancia contro i maccheroni. Gli spaghetti alla bolognese che non esistono. Sì, ma questa è un'altra storia. Lo sappiamo. E questa è un'altra storia ancora. Così come comunque la pizza napoletana a Roma è esattamente la pizza romana a Napoli. Esatto, esattamente, cioè, il contrario. Si inventano, quindi non... Però quindi, maccheroni dire, non esistono, è un tipo di pasta. È un tipo di pasta. Però è nata questa accezione, quindi questo modo di utilizzare la parola maccherone per indicare la pasta in senso lato, il che ovviamente per noi non è corretto. Però insomma. E anche in modo sineddotico. Gli italiani, i famosi maccheroni dell'epoca del Belgio. Sì, del 56, però era un modo, infatti, quello era ancora, insomma, dispregiativo. Era un dispregiativo che significava ancora quant'altro. Quindi ci sono anche dispregiativi come spaghetti frizzet, giusto? Mi sbaglio, Imola? Spaghetti freezer? Di che cosa stai parlando? Ecco, meno male che in tedesco. C'è qualcuno poi che lo riporta sulla terra, che lui mangiatore, no? Di spaghetti inizia a salire in superficie e quindi poi bisogna che tu spaghetti fressen, scusate, il mio tedesco è molto arrugginito. Friseur è il parrucchiere. Era qualcos'altro. Cioè, c'ero vicino, ero sulla strada, spaghetti fressen. Ti eri dimenticato di condirli gli spaghetti, avevi conditi con la salsa sbagliata. Però, insomma, la pasta, voglio dire, è sempre stata sinonimo di italiano. Mari, questo evento quando... Sì. Allora, l'evento avrà luogo dal 21 al 23 ottobre incluso al Palazzo 6 di Bruxelles Expo, quindi insomma il luogo abituale per le manifestazioni più importanti a Bruxelles. Tutto questo al modico prezzo, perché secondo me è veramente modico, di 8 euro, e invece i gruppi con più di 10 persone solo 4 euro. L'apertura è tutti i giorni dalle 10 alle 18, quindi ricordiamo Bruxelles Expo a Leysel, Place de Belgique, e diciamo i padiglioni dedicati al Salone dell'Alimentazione saranno il 4, il 5 e l'8, ma in particolare il 5, il 6 è quello dedicato all'Italia. E voilà, è una cosa interessante invece per chi è interessato alla moda, così è un po' vintage, come si dice. Beh, c'è una bella esposizione che si intitola Progresso veniva dal cielo. Ah, questo è bellissimo. È la storia della Sabena. La Sabena è nata nel 1923 e poi, senza, fino alla sua purtroppo fallimento, è stata una delle grandi compagnie europee. Prima dell'aereo c'era il treno e il battello. Insomma, vincere questi concorrenti all'epoca non fu una cosa semplice, perché il debutto dell'aviazione, insomma, è stato un po' avventuroso. I voli erano non proprio confortevoli, gli incidenti numerosi, come sappiamo, insomma, quando si vola l'incidente porta molto, quasi sempre, a una fine chiara e precisa, sappiamo qual è. Ma a lungi dallo scoraggiarsi, ci sono state iniziative audaci, come la creazione di un network, di una rete interna al Congo, a partire dal 1921-22, cioè il primo al mondo. Prima compagnia, la rete di aerolinee era nel Congo, nel 21, incredibile. Incredibile, sì. Comunque, visto che questa cosa è interessante... Quando c'è George? Ma questa cosa non è solo la storia della Sabena, ci sono anche tutte le divise della Sabena, dagli inizi fino alla fine, fino ai giorni nostri, quindi incredibile. Una cosa interessantissima, al Museo del Cinquantenario, con una tariffa molto bassa, massimo 8 euro, ed è aperta dal martedì al venerdì dalle 9:30-17 e il sabato e domenica dalle 10 alle 17. Ah, questo è molto interessante. Questa differenza di mezz'ora mi lascia un po' perplesso, però vabbè, insomma, siamo in Belgio dalle 10 alle 17 in genere, ed è dal 30 settembre, quindi è appena iniziata, e finisce il 26 febbraio, quindi c'è modo, insomma, di poter partecipare. C'è modo di andare, insomma, mi hanno detto chi l'ha vista che ne vale la pena, insomma, è divertente, è interessante. Per concludere la nostra ampia carrellata di eventi che avranno luogo a Bruxelles, vi ricordo giovedì 6 ottobre, quindi dopodomani, tra le 18 e le 21, vi è una mostra dedicata al cosiddetto Lontano Oriente, che sono sicura piacerà molto alla nostra Imola. Praticamente avrete la possibilità di scoprire tutte quelle che sono le meraviglie e i segreti dei samurai. Quindi questo al Museo d'Arte Giapponese, a due passi dal Palazzo Reale di Laeken, e quindi ci sarà modo, insomma, di poter scoprire tutti quelli che sono i segreti legati proprio a questa figura che penso abbia affascinato tutti, me compresa, non solo da bambini ma anche da adulti. Quindi Musée d'Extrême-Orient, Avenue Pratt 44 a 1020 Laeken, tariffa veramente modica. Bravo, tra i 3 e tra i 3 euro e 1,50 euro. Questo avverrà soltanto giovedì, quindi 6 ottobre, tra le 18 e le 21, e le visite ci sono ogni 30 minuti. Cos'è tra le 18 e le 21 che non ho capito? Che praticamente si può visitare la mostra tra le 18 e le 21, ci sono delle visite guidate organizzate ogni 30 minuti. Vi interessa? Interessa sapere, interessante, Samurai, perché sono da lì, dove parte anche dai. Librangolo, librangolo, librangolo, librangolo. Abbiamo una nuova sigla? Sempre, ogni giorno, ogni martedì un'altra, no? Yes. Questa in particolare sono sigle che vengono dall'anima. George, ma guarda. Se continui così mi commuovo. Ho un animo contorto, piangiamo insieme. Piangiamo tutti insieme. No, ridiamo tutti insieme, dai. Ridiamo tutti insieme, anche se il libro che ho portato stasera non è molto per ridere, diciamo. Però si tratta di un libro bellissimo che lo metterò sulla lista delle scoperte di 2011, che oramai si sta un po' allargando. E il titolo è, fatemi ricordare, perché in italiano è molto più complicato che in inglese. Allora, è stanza, letto, armadio, specchio. Ecco, in italiano è stanza, letto, armadio, specchio. In inglese, room. Ma... perché in italiano sono più complete. Stanza, letto, armadio, specchio. Ovviamente. Allora, l'autrice è Emma Donoghue. Emma che? Donoghue, D-O-N-O-G-H-U-M. Ho lasciato fuori una G. Comunque, ve lo scriveremo sul blog, ve lo prometto. Quindi, allora, questo è un libro bellissimo che è scritto dal punto di vista di un ragazzino di 5 anni che vive con sua mamma, che chiama semplicemente Ma, dentro stanza, e si noti l'assenza dell'articolo definito, perché il suo mondo è questa stanza, loro due vivono là, e lui infatti non ha nemmeno la più pallida idea di che cosa sia fuori. Allora, dopo, uno procedendo con la storia, non è una grande sorpresa, quindi ve lo posso anche dire, deve scoprire che praticamente è rinchiuso insieme alla sua mamma in questa stanza, che lei era stata rapita a 19 anni, adesso ne ha 27, e che da allora in poi non è riuscita a scappare, ha avuto anche un figlio, non bisogna avere troppa fantasia da sapere da chi. E quindi che però questa mamma riesce, arriva al pensiero che comunque loro non possono restare più là, anche se lui è ancora giovane e lui è comunque l'unico possibile espediente per poterli salvare. E da questo punto in poi che diciamo che l'azione o il mondo, questo mondo piccolo che era molto, diciamo, arrangiato, cioè molto... programmato, ammirevolmente programmato dalla mamma, che si sconvolge. Cioè, praticamente quello che succede è che lei comincia a dementire, si può dire così. Cioè, fino allora stava in un certo senso mentendo, perché aveva negato, diciamo, la esistenza del mondo. Loro hanno una TV, ma lei dice che tutto quello che c'è nel TV c'è soltanto nella TV. Che ovviamente, che cosa puoi dire? Certo. E dopo invece deve fare l'opposto, cioè deve far credere al suo bambino che tutto quello che vede nella TV esiste, che è vero e che vale la pena cercare di raggiungerlo, cioè di uscire da questa piccola stanza e di uscire nel mondo. Quello che è ancora, cioè, diciamo che questo, l'inizio di per sé è già molto interessante, è presentato in modo originale e ti fa pensare già tanto, ma con mezzi semplicissimi. Però E il periodo dopo, quando loro sono già fuori, che è ancora più interessante, ve lo dico, perché quello è il momento della scoperta del mondo dal punto di vista di qualcuno che davvero non ha conosciuto di più di stanza letto, armadio, specchio. Quindi per chi il vento è una cosa sgradevole e spaventosa, o per chi vedere tante persone insieme è proprio confuso, che non è mai stato in un grande magazzino, quindi che ha visto 5 libri in tutta la vita sua fino allora, eccetera eccetera, e questa scoperta del mondo, uno sente questi piccoli conflitti o tranelli, e per cui uno si può immaginare una fine molto triste anche a questa storia, perché è destabilizzante. Cioè, quello che uno legge, che quello che uno sente mentre legge questo libro, è comunque destabilizzante. La scrittrice comunque dona una fine lieta alla storia, e fa aprire gli occhi anche alla intelligenza meravigliosa che c'è dentro i bambini, il loro modo di reinventare, diciamo, il mondo, di avere una capacità incredibile di a volte cogliere proprio le cose nel segno, che secondo me è assolutamente vero. E vabbè, cos'altro vi posso dire? È assolutamente un libro che vale la pena leggere, che ha una lingua semplicissima, allo stesso tempo precisissima, diciamo, su questa storia. La mia domanda è, visto che ci hai svelato la trama, mi pare di capire, visto che altre volte non l'hai fatto, che la trama non sia poi così fondamentale. È come una specie di vi racconto le situazioni, c'è una stanza, poi escono, quindi credo che l'importante, se capisco bene, è anche il lieto fine, hai detto. Cioè, questo credo che sia una parte relativa della storia, insomma, può accontentare qualcuno, la curiosità, però in realtà il libro si incentra su altro, proprio sulla scoperta del bambino e sulla capacità creatrice. Fondamentalmente diciamo che le cose che succedono sono anche prevedibili, cioè non ci sono tantissime possibilità mentre uno legge la storia, cioè quindi 50%, non è che... Quindi anche se a uno viene molto velocemente, viene questo voglio sapere come succede, perché questo non ve l'ha detto, non ve l'ho detto e non ve lo dico, cioè da un lato c'è la scoperta di come succede, uno è comunque molto coinvolto nella storia e vuole sapere che cosa sta succedendo, ma dall'altro lato davvero, come dicevi tu, l'interessante è comunque il processo stesso, che comunque, dicendo una semplice trama, non si riuscirà mai a svelare. Cioè, il libro è abbastanza originale perché anche da questa trama, che fondamentalmente potrebbe sembrare anche diciamo ultra semplice, prevedibile in un certo senso, che comunque fa uscire proprio quelle dimensioni umane o quelle dimensioni che proprio sembrano critiche in una situazione del genere. Comunque poi c'è pure l'aspetto personale e psicologico, ognuno poi riesce a tradurre delle situazioni in un modo piuttosto che in un altro, quindi svelare la trama alla fine può risultare utile fino ad un certo punto, poi c'è tutto l'apporto personale che tende a modificare, voglio dire, magari la stessa interpretazione o i sentimenti che descriveva Imola magari possono essere... digeriti, se vogliamo, in modo diverso. Quindi insomma, non è una storia, no? Tanto per far capire, non è una storia su come si scappa da una stanza. Ne fa parte, sì, però non è una storia su come si scappa da una stanza, è una storia incentrata sul bambino. Ci sono degli eventi, sono una stanza, poi scappano, c'è un lieto fine, non sappiamo qual è più o meno, però non è questo l'interessante, ecco, non è una specie, che ne so, di thriller. È in realtà proprio la vicenda di come i bambini vedono le stanze, anche della madre, come la madre è riuscita a gestire tutta la situazione, sia prima nella stanza che fuori, perché immagino che sia uno shock di tutto rispetto, insomma. Oh là là. Cioè, davvero, cioè, il titolo comunque è bello, cioè stanza, anche in italiano, anche se è un po' troppo lungo, stanza letto, armadio, specchio, perché davvero è questo il mondo da cui noi stiamo uscendo, o in cui per molto tempo, per 5 anni, questo bambino ha vissuto. È davvero... stanza piccolissima, letto dove si dorme, lui dorme a volte nell'armadio, armadio, cioè armadio, armadio. E lo specchio, cioè... E l'autrice fa un riferimento magari anche a questi componenti, perché immagino che il titolo poi italiano rifletta forse anche parte del contenuto. Sì, sì, cioè quello che c'è è proprio che tutti questi elementi hanno proprio dei nomi propri, perché non ci sono altri esemplari nel mondo. Infatti, certo. La bellissima cosa è quando lei cerca di spiegarle che non è il solo letto questo, o non c'è la sola stanza in tutto il mondo questo, e lui non le crede. Dice, se stai mentendo, non ti credo, non si vede, dov'è? È la sua intelligenza di bambino, e innocenza anche allo stesso punto. Sì, comunque, bellissimo libro, ve lo raccomando vivamente. Quindi, Emma... Ci provo di nuovo, va bene? D-O-N-O-G-H... Diciamo Donige. O-U-E, penso. Donige. Qualcosa di genere. Chi lo sa? Vabbè, essendo comunque... inglese o scozzese potrebbe essere Donoff. Donfa. Sì, cioè comunque non è OUE, scusate. Magari gaelica, cioè, comunque... irlandese, chi lo sa? Signori, inutile cercare di leggere in inglese, perché tanto non ci riusciremo mai. Non ci si riesce, bisogna saperlo. Andate sul nostro sito brussellando.blogspot.com, sul nostro blog, e ci saranno e ritroverete tutte le indicazioni. Noi siamo alla fine, il tempo, ahimè, veramente corre troppo, troppo velocemente, quindi è oligarca. Questa è assolutamente. Quindi questa nostra seconda puntata di Brussellando, stagione 2011-2012, volge il termine. Ringrazio Dani M. Regia. Grazie a tutti. Ringrazio ovviamente Imola per i suoi suggerimenti di lettura. E grazie a voi. Ovviamente la nostra Brussellandopedia, senza il quale il mondo sarebbe migliore, ma c'è sempre qualcuno sarebbe che meno parte. Dotto, sarebbe meno dotto di sicuro. Secondo me è un po' pisolo, cioè, non la mia esistenza, però vabbè. Ovviamente Mari D vi ringrazia. Grande Mari D. Vi auguro un'ottima settimana e a presto di sentirci a martedì prossimo. Alla teogonia. Alla teogonia di Sion.